Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non poco rumore hanno fatto le dichiarazioni di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, all'assemblea degli azionisti. Ne abbiamo isolato due frammenti in particolare che sono di gran lunga i più significativi. Ascoltiamo il primo. Quindi allorché sia accertata la correttezza dell'operato della Juventus negli anni che sono inquisiti, valuteremo eventuali azioni di riassegnazione dei titoli. Quindi questo è quello che io avevo già dichiarato e oggi ho confermato. Ho la sensazione che a Roma il dialogo è continuo e costante e quindi ho la sensazione che le cose stanno muovendo, abbiamo la rassicurazione che le cose stanno muovendo in un rapporto di stima reciproca tra le società sportive e l'organo centrale che è la Federazione Gioco Calcio. Gioco Calcio ha appena dichiarato non c'è una risposta della federazione al momento alla richiesta di Andrea Agnelli sulla riassegnazione alla Juventus degli scudetti 2005-2006. C'è un procedimento penale in corso e quello sportivo sta seguendo il suo iter. La Federcalcio rispetta l'autonomia della Procura federale e lo stesso farà con le sue conclusioni. Queste le parole di stamane del presidente Abete. È collegato con noi Marino Bartoletti. Buongiorno Marino. Ciao Gigi, buongiorno a te e a tutti. Senti, io ho sentito e letto soprattutto reazioni contrastanti a questa presa di posizione di Agnelli, dall'ovazione dei presenti all'assemblea degli azionisti a forti perplessità esterne, passando per questa cautela di Abete di cui ho appena riferito. La tua sensazione qual è? La mia sensazione è che il punto di partenza deve essere di massimo rispetto per questa società che ha fatto la storia del calcio italiano e che tutti speriamo che continui a farla. Ma proprio in omaggio a questo rispetto, io credo che prima si seppelliscono quei due anni, 2005-2006, nell'interesse della Juventus e del calcio italiano, e meglio è. Non è interesse nessuno rivangare quelle malinconie e non vedo perché Agnelli, sull'ala di un populismo che non appartiene né a lui né alla sua famiglia, in questo momento dovrebbe indulcerci. E questo anche perché Marino, ma mi rivolgo a te, ma mi rivolgo soprattutto agli ascoltatori, questo non è il passo, non dico più inquietante, ma insomma il passo che ha fatto più discutere dell'intervento di Andrea Agnelli, per l'appunto del presidente dell'assemblea degli azionisti. Ce n'è un secondo che è di gran lunga più, come dire, significativo. Ascoltiamo anche questo. Io ho già ribadito la mia stima per Luciano Moggi, personalmente a lui e anche in maniera pubblica per quello che riguarda il lavoro che ha svolto, non solo da noi ma anche in tutte le società per cui ha lavorato prima, quindi quella non verrà mai meno. Oggi però la persona di riferimento per quanto riguarda l'area tecnica è Giuseppe Marotta, ha tutta la mia stima e farebbe piacere che avesse tutta la stima di tutti i sostenitori della Juventus. Qui qualche perplessità in più ulteriore c'è, Marino, vero? Sì, è un passaggio a cui poteva tranquillamente rinunciare. Io mi ricordo quando nei giorni dello scandalo quello che era ed è il capo azienda, e cioè John Elkann, disse che manifestava tutta la sua solidarietà ai giocatori, all'allenatore, ma mi sembra che fece un bel punto alla fine di questa frase. Io, guarda, fatta salva anche la simpatia personale nei confronti di Moggi e il riconoscimento della sua cultura, competenza calcistica, però io credo che Moggi abbia fatto un torto a quella squadra che pure dirigeva così bene, a quei tifosi, alla storia di quella società. Sinceramente, applicare la propria legge, pensando che quella sia la legge, penso che non appartenga alla buona gestione di una società calcistica. Io, guarda, se fossi un calciatore della Juventus sarei molto arrabbiato per quei due scudetti che sono stati tolti, perché quegli scudetti forse i giocatori li avevano conquistati sul campo. È tutto quello che stava attorno che ha fatto, ripeto, torto alla società e alla storia del calcio italiano. Meglio è prima seppelliamo quei due anni e meglio è nell'interesse di tutti. Sì, mentre invece si sta disseppellendo e si stanno purtroppo scoperchiando appunto tombe che tanto valeva non riprofanare, ma in ogni caso tu credo abbia indovinato perché proprio te ho scelto oggi come interlocutore a proposito di quest'ultimo intervento di Agnelli, perché io ricordo bene e secondo me gli ascoltatori più longevi e più fedeli ricordano altrettanto bene Quel giorno lì, 4 anni fa direi, in cui tu scopristi che sulle colonne di Libero, giornale a cui, quotidiano a cui tu allora collaboravi ed era diretto allora da Vittorio Feltri, scopristi che una rubrica era stata affidata a Luciano Moggi e un minuto dopo mandasti un'elegante lettera a Vittorio Feltri dicendo che non ti sembrava particolarmente compatibile la tua e la sua presenza. Sì, ricorsi a quella che tu definisci eleganza e anche un po' all'ironia. In realtà quella lettera, che poi era la mia ultima rubrica, non venne mai pubblicata, e la cosa sinceramente mi dispiacque, perché Libero era e dovrebbe essere una palestra appunto di libere opinioni. Io non ho nulla contro Moggi, però come io non voglio fare né il direttore sportivo né il direttore generale, beh, avrei piacere che la mia dignità di professionista, credo conquistata e maturata negli anni, in qualche modo venisse preservata da queste forme di contaminazione. Poi lasciami anche dire che a me piacerebbe che chi scrive gli articoli e chi firma gli articoli li scrivesse veramente, perché su questo probabilmente andrebbe anche fatta una piccola indagine. Ah sì, tanto per rimettere le cose in quadro. Senti, Marino, allora predisponiamoci per l'appunto, perlomeno da parte nostra, a rimetterci una pietra su in attesa, se non altro, di sviluppi giudiziari che... Guarda, quando io dico una pietra su, dico veramente una pietra tombale, anche se in questi giorni è così inelegante parlare di pietre e di pietre tombali, soprattutto visto quello che di serio e di tragico succede nel nostro paese. Io dico che quei 2 anni dovrebbero essere neutralizzati dalla storia del calcio. Niente scudetti riassegnati, ci va messo veramente il sale sopra quei 2 anni. La Juventus ha il dovere, e mi sembra che oggi intelligentemente anche Luigi Garlando l'ha scritto sulla Gazzetta dello Sport, di guardare al futuro. La Juventus è il futuro e la speranza del nostro calcio, per chi ama veramente il calcio e per come si sta predisponendo a questo futuro. Come si fa a fare un paragone morale fra Marotta e Moggi? Perché Agnelli cade in questi tranelli populisti? Non lo deve fare, lo deve fare. La Juventus ha ritrovato la strada della serietà, della coerenza e della dignità, e noi siamo in piedi ad ammirarla per i sacrifici che ha fatto. Mi sono alzato anch'io di fronte a queste parole, perché la verità è, e non si capisce davvero questo peccato di strabismo, no? Da parte di chi oltretutto è così giovane e a maggior ragione dovrebbe guardare in avanti anziché cadere in queste tentazioni. Facciamo un intervallo che tu ben conosci per ragioni tecniche, e poi proviamo a cambiare argomento e anziché alle tombe a dedicarci magari ai compleanni e agli echi di quello che abbiamo trattato in questi giorni. Strade e autostrade. Proviamo a rifarci la bocca. Mi è arrivato ora da Franco Piantanida, che collabora, che cura la redazione di questo programma, l'esito definitivo del sondaggio, è una parola che non mi piace, di tutti i vostri contributi, di tutti i vostri interventi via sito, via mail, via blog, via tutte le vie che conoscete voi, via sms e telefonate in diretta, finché ce n'è, su chi è stato il più grande tra il fresco settantenne di sabato scorso, Pelé, e il quasi cinquantenne Maradona del prossimo sabato, con il 66% dei voti, cioè il 66% di voi ha votato Maradona e il 34% Pelé. Marino, sei in maggioranza o in minoranza? Sono in maggioranza, anche se credo che in questo caso agli ascoltatori di Radio 24, agli intelligenti ascoltatori di Radio 24, forse abbia fatto velo un pochino l'anagrafe, nel senso che è fatalmente più facile votare per quelli che abbiamo visto di più o per quelli che solamente abbiamo visto, che non rispetto ad altri di cui ci sfuggono effettivamente i meriti. Apro una parentesi per dirti che in questi giorni sto curando una cosa simpatica per la Panini, che a sua volta compirà 50 anni, nostra sorella Panini. Che quindi cercherà di nominare, attraverso una selezione di portieri, centrocampisti, difensori, attaccanti, quella che è la formazione di questi 50 anni, quindi di fatto del dopoguerra. E mi rendo conto, facendo questo elenco di nomi, che alcuni li voterei soltanto io, li voteresti soltanto tu, e che fatalmente finiranno col prevalere forse i più giovani, e quindi questa elezione andrà in qualche modo ponderata da una giuria di qualità, possibilmente composta da qualcuno con i capelli bianchi. E allora tutto questo per dire che effettivamente i contemporanei sono leggermente più favoriti rispetto a quelli che si sono esibiti un pochino prima. Io ho ascoltato la Lectio Magistralis che ha fatto l'altro giorno ad Alberto Bortolotti, che è il vero Maradona del giornalismo sportivo. Su questo siamo davvero d'accordo. Ho intuito la sofferenza delle sue argomentazioni, perché non c'era cosa che non poteva essere immediatamente contraddetta da argomenti simmetrici. C'è una cosa, secondo me, sulla quale bisogna riflettere, sul fatto che forse Maradona è stato l'unico giocatore al mondo che poteva cambiare le potenzialità vincenti di una squadra. Questo sì, sicuramente è successo. Questo lasciami aggiungere di mio che se parliamo di sublimazione del calcio, di arte del calcio, persino nelle sue declinazioni più circenti, se mi passi la parola, sì, forse Maradona ha avuto qualcosina di più rispetto a Pelé. Pelé sapeva far bene quasi tutto, ma alcune cose che sapeva fare Maradona Pelé non le sapeva fare. Sai che l'aveva sintetizzato l'altro giorno stupendamente Totò Noiuliano, e di tutte di tutta questa produzione, no, produzione cartacea no, sono io che poi le ho stampate per averle sott'occhio e per conservarle, tutti i messaggi, tutte le dichiarazioni di voto che sono arrivate, Giulio Compagnone era rimasto folgorato da queste parole di Totò, che erano state: Pelé è stato il giocatore più forte sulla terra, Maradona l'unico extraterrestre. No, perché poi va detta alla Giuliano. E mi sembra la sintesi. Posso fare un esempio pratico? Ho sotto mano una parte dell'elenco che sto facendo per, sì, i giocatori del presente e del passato. Sì. Curiosamente, per quanto riguarda gli attaccanti, c'è una sequenza di 6 o 7 giocatori che recita: Amrin, Henry, Hitchens, Iaquinta, Inzaghi, Jair e Juligno. Ecco, ho paura che paura fra virgolette, che gli, sì, elettori della Panini voterebbero soprattutto Iaquinta e Inzaghi. Ma vagli a spiegare cos'è stato Amri, certo, vagli a spiegare cos'è stato Jair, non ci provo neanche a spiegargli cos'è stato Juligno. Certo. E questo è il problema, l'anagrafe ci frega, soprattutto a noi persone anziane. Sì, a noi persone anziane, per noi è una tara proprio, su questo non c'è dubbio, però è anche vero che ci consente la memoria. Se evidentemente nei paraggi di HI, no? I lungo e finché ce n'è, hai detto Juligno, insomma, Juligno per noi significa molto, per Rigione non significa nulla, era l'ala destra della Fiorentina, un brasiliano che quando venne in Italia cambiò faccia alla Fiorentina, e non a caso la Fiorentina quell'anno vinse lo scudetto 56-57 direi, o 55-56 forse. 55-56, esatto. Poi arrivò secondo per 3 anni consecutivi, se non ricordo male, ma Juligno riesce a starci per un anno soltanto nelle figurine Panini, come se Dio vuole, sto guardando sempre l'ordine alfabetico applicato alle altre categorie, per qualche anno ci sta anche Nils Liedholm, se, certo, Dio vuole. Volevo soltanto aggiungere che per 2-3 anni nella nazionale brasiliana di quel tempo e avanti con Didi, Vavà, Pelé, Altafini, eccetera eccetera, Juninho fu un serio ballottaggio con Garrincha, e spesso giocò lui al posto di un certo Garrincha, per dare un'idea, no? Di chi stiamo. Guarda, è sempre per abbandonarci al nostalgismo, ecco, nel Brasile campione del mondo del 58. Ho sentito che parlavi con Altafini, mi sembra ieri. Le due riserve di quel Brasile, che si chiamavano Altafini e Sani, fecero la felicità di una squadra che, certo, di lì a qualche anno sarebbe diventato per la prima volta campione d'Europa. Cioè, si, senti, io ti sottopongo ancora una lettera che ho ricevuto da Massimo Veronese, che è un giornalista scrittore, e che mi ha davvero, dice, sarebbe tenero se tu ricordassi, e mi ha fatto davvero molta tenerezza. Emilio Campassi, tu sai chi sia Emilio Campassi? Ti becco, per una volta ti becco in cose, io non avevo idea. Allora, Emilio Campassi è l'autore di Maradona, Emelia e Pelé. Ah, caspita. Scrive Massimo. Il mai troppo rimpianto. Fantastico. Campassi. Allora, si apre il file. Cioè. Vedi, ti si è aperto il file. Scrive. Purtroppo non c'è più. Esatto, c'è. Scrive Massimo Veronese, l'ho ascoltato oggi pomeriggio nella tua trasmissione, è morto a 52 anni nel 93. La sua storia è incredibile, perché Campassi, cantante e pianista, ottenne da Maradona, Emelia e Pelé, ai tempi di Diego, una popolarità enorme, ma nemmeno una lira, perché il mercato nero napoletano, moltiplicando all'infinito le copie tarocche, e ragazzi, quello è il destino, gli portò via praticamente tutti i diritti d'autore. Per mantenere moglie e figli, Campassi, uomo schivo di grande sensibilità, continuò così a lavorare al piano bar di locali notturni. Ma aspetta come finisce la favola. Maradona lo volle conoscere, strinse con lui una festosa amicizia, lo volle come pianista nella trasmissione che conduceva su Canale 10, cantò una sua canzone dedicata al primo scudetto, La favola più bella, e si fece poi comporre per la prima figlia una melodia delicata. Beh, mi sembra una storia meravigliosa questa. Guarda Gigi, l'altro giorno sono uscito dal film di Pupi Avati, Una sconfinata giovinezza sull'Alzheimer, convinto di avere l'Alzheimer, e questa tua testimonianza me ne dà la prova, perché io ero il conduttore di quella trasmissione. Ecco, ma io ce l'ho arrivato, a me sembrava di ricordare onestamente, no, che tu c'entrassi allora con questo programma su Canale 10, però effettivamente c'è grandi qualche ricordi, veramente grandi ricordi, e grande infinito affetto nei confronti di questo ragazzo, stavo per dire sfortunato, io non so se Maradona è stato fortunato o sfortunato, certamente ha vissuto in maniera molto intensa la sua vita, gli ho voluto molto bene, c'è un un Maradona a cui ho voluto molto bene, a cui forse proprio volendogli bene non ho perdonato i cattivi esempi che ha fornito a qualcuno, però certo, quando lo rivedo spesso a casa di bagni l'estate lo riabbraccio sempre con tanta gioia. E allora sai cosa facciamo, Marino? Noi ci salutiamo e ci abbracciamo come sempre, ma ci lasciamo oggi in onore a questo 66% di Maradona e soprattutto in memoria di Campassi, di Emilio Campassi, ci lasciamo con la musichetta. Un abbraccio. Ciao. Chi sa canta da Kist, chi sa canta da Kill, chi sta in Uria Buril, e c'è una volta scende a fermare. Maradona e Medevelè, ci hanno fatto pazza dalla valla me. Maradona, faccio sonare, sto scudetto portangilla martecca. Io vi posso garantire che qualche tifoso del Napoli qua tra Sole 24 Ore e relazioni di Radio 24 qui in Viale Monterosa a Milano c'è, ma che questa canzoncina, questa filastrocca, chiamatela come volete, è talmente trascinante che in realtà parecchi tifosi di Inter, Milan, Juventus, come qua dentro invece sono in grande abbondanza, da due giorni la stanno ricantando con grande piacere. Un paio di minuti circa all'intervallo. Allora, intanto vi ricordo come riparte il campionato, perché questa nona giornata non può essere certamente decisiva, ma sarà un turno che orienterà la classifica in maniera significativa. Allora, intanto domani sera, e quindi anticipo al venerdì 20:45, Genoa-Inter con direzione di Banti di Livorno. Sabato sera 20:45 Milan-Juventus affidata a Rocchi di Firenze, e qui sulla designazione siamo un po' meno d'accordo, trattandosi di una partita di così alto livello e di un arbitro che purtroppo di così alto livello, se mai lo è stato, certamente non è più. E poi l'anticipo domenicale delle 12:30 a Palermo, Palermo-Lazio affidato ad Amato di Barletta. Un ascoltatore prima dell'intervallo e poi ci sarà spazio nella seconda parte. Matteo da Livorno, dica. Sì, buongiorno dottore. Buongiorno. E complimentissimi per la trasmissione, ma non mi voglio dilungare. Una cortesia, visto la sua infinita saggezza e lungimiranza nell'argomento. Infinita saggezza. Roberto Baggio, sì, in che posizione sta nella sua classifica, a meno di italiani? Questa è una curiosità che volevo levarmi, insomma. La ringrazio e attendo la grazie, risposta in trasmissione. Grazie a lei. Beh, di italiani, su due piedi non è facilissimo, le classifiche in questi giorni le hanno fatte Bortolotti, le hanno fatte un po' tutti, io no. Così vado al brucio. Sta dietro a Rivera, Riva, Zoff, Tardelli, direi Scirea, aggiungerei Meazza, un paio me li dimentico sicuro, diciamo che sta nei primi dieci, ecco, ma non certamente sul podio, per quel che mi riguarda. D'accordo? No, linea caduta, domando scusa. La risposta però dovrebbe essere arrivata, io credo. Facciamo in tempo a sentire una voce di vigilia, perché vi dicevo, insomma, Genoa-Inter è domani sera, quindi ormai ci siamo molto vicini. Allora, io sentirei innanzitutto la voce di un attaccante del Genoa, che però è di proprietà dell'Inter, è cresciuto nell'Inter, e io ne avevo sentito parlare, diciamo, un paio d'anni fa, e in particolare lo scorso anno, come di una grande promessa destinata a essere inserita subito nell'Inter, cioè nella sua squadra. Poi, come sempre in Italia, coraggio di lanciare i giovani non ce n'è tantissimo. Questo vale per ogni società, per ogni categoria e per ogni latitudine. Sentiamo Destro a proposito della sfida di domani sera. Sarà una bellissima partita, anche perché l'Inter è una squadra fortissima e noi cercheremo, come abbiamo fatto sempre ogni domenica, di ottenere i tre punti che per noi sono fondamentali. Come ho detto anche altre volte, io penso sempre molto a lavorare e a migliorarmi. Poi se il mister mi dà la possibilità di scendere in campo va bene, se no io lavoro sempre come ho fatto e cerco di meritarmi lo spazio che il mister mi sta già dando. Credo che loro sono una squadra fortissima, quindi noi dobbiamo fare la partita perfetta. Cercheremo, stiamo lavorando appunto per fare questa partita perfetta, quindi una cosa impossibile per noi penso che non ci sia, quindi speriamo appunto di fare una buona gara e di ottenere i tre punti. E Valentino Mazzola, domanda Davide da Torino. Valentino Mazzola è sparito momentaneamente per l'Alzheimer, ma non il suo, povero uomo che è morto da così tanti anni, il mio Alzheimer, perché era il primo nome che avrei dovuto dire se per l'appunto non ci fosse questa cosa incipiente che avete sentito prima, già sta un po' tormentando il mio e vostro amico Marino Bartoletti. Intervallo per la borsa. Sempre a proposito di Pelé Maradona, scrive Nicola Guarino, che è un ascoltatore affezionato, oltre che illustre, dice: con le dovute proporzioni, in Brasile Ronaldo versione XXL ancora segna, per questo Maradona è meglio di Pelé. Non è male come riflessione. Poi poi arrivano molti messaggi, diciamo, lusinghieri, quindi grazie ad Antonella, da Catania, grazie per esempio ad Arrigo da Verona. Sentiamo Alberto, chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini, salve. Niente, io volevo parlare a proposito dell'intervento di Andrea Agnelli. Sono un tifoso juventino, lo premetto. Sì. Io molto onestamente, chiaro che qui sul discorso di Calciopoli si potrebbe parlare per delle giornate intere, però L'abbiamo fatto a suo tempo. E io ricordo proprio che lei, già anni fa, è sempre stato molto critico verso questo aspetto, verso la Juve e tutta la gestione. Però di fatto da juventino mi consente di fare un paio di considerazioni. Io credo innanzitutto che il popolo juventino, così numeroso, mi passi il francese, è incazzato nero per una cosa, per il fatto che il famoso scudetto, quello assegnato all'Inter per etica, per il comportamento, per tutto ciò che è stato, non può non essere revocata questa squadra. Se io penso soltanto al discorso passaporti, cioè se avessero tolto 3 punti per ogni partita che Recoba ha giocato con un passaporto fasullo, sarebbe andato in Serie B l'Inter. Per cui io voglio dire, mi aspetto giustizia, ma non tanto nella riassegnazione dei 2 scudetti alla Juve, quello poi è opinabile, vedremo cosa uscirà dal processo di Napoli. Però onestamente mi aspetto che, se si parla di etica, se si parla di un gruppo di saggi, 3 saggi, guarda caso tutti di una sola bandiera, hanno assegnato quello scudetto all'Inter, se esiste dell'etica, mi aspetto che quello scudetto venga tolto. Tutti di una sola bandiera, ma vede Alberto, è indubbio che l'assegnazione di quello scudetto, dal mio punto di vista, fu un errore addirittura clamoroso. E quando leggo ancora oggi che l'Inter lo rivendica, sinceramente mi viene da ridere, soprattutto oggi che poi ne hanno vinti alcuni altri. Allora si poteva anche... cioè era sbagliato comunque sia assegnarlo che soprattutto accettarlo, ma poteva pateticamente avere un significato, pateticamente, sottolineo. Oggi sinceramente è facile rivederlo come un errore storico, però ci sono delle cose storiche e altre no. Cioè il tipo di revisionismo che lei ha proposto, insomma, fa parte del, diciamo francamente, dell'opinabile. E in ogni caso lei si sente giustamente rappresentato dal presidente attuale della Juventus, è un suo diritto, e alle persone come lei sicuramente che ieri si è rivolto il presidente della Juventus, e anche questo è un diritto che gli compete. Armando Padova, buongiorno. Sì, buongiorno signor Gigi. Dica. Sono molto contento di parlare con lei. Va bene. Senta, io volevo chiederle, a parte che io le dico subito che faccio parte del 66% di Maradona. Sì. Di Pelé io ricordo i 2 gol che fanno sempre vedere, quello del gol di testa contro l'Italia, certo, e quello che ha fatto il sombrero, mi sembra, nella finale in mondiale del 58, ecco. Sì. Volevo chiederle, ma Pelé era specialista sul calcio piazzato come lo era Maradona? No, questo no, io credo, anzi, oddio, su Pelé non abbiamo certamente nemmeno, ma non dico la metà, ma forse nemmeno un decimo della documentazione visiva che abbiamo su Maradona. Maradona ha giocato 20 anni più tardi, infatti ci sono 20 anni di differenza tra loro, e soprattutto ha giocato in Europa. Che si sappia non era una prerogativa sua. Negli anni in cui si è visto Pelé ai mondiali, per esempio anche nel 70 le punizioni le batteva Rivelino, che era un altro grande giocatore, batteva Gerson semmai, ma non le batteva Pelé. Quindi non credo che fosse uno specializzato di calci di punizione. Poi altro discorso è il club, magari nel Santos invece era lui a calciarle. Certamente i rigori li ha sempre calciati lui, anche perché sennò a quella cifra sterminata di gol non sarebbe potuto arrivare, ma non credo che la punizione fosse in particolare una specialità sua. Ancora un ascoltatore, poi abbiamo la vigilia di Milan-Juventus. Ernesto, Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Prima cosa, come lei sempre dice, il tifo mi sa che sta facendo ancora, è ancora una malattia, specialmente per i juventini. Poi vorrei dirvi che per quanto riguarda il discorso Maradona e Pelé, l'età comunque comporta che Pelé non è che l'abbia visto tanto, però me e Maradona non ha rivali. E come terza, riprendendo un discorso che avete fatto l'altro giorno, credo che sia da punire il giocatore del Bologna, se non erro, perché era troppo furbo su Krasic. Quindi lui ha tirato il piede e secondo me anche a lui due giornate. Perché ha tirato via? Perché ha tirato via il piede? È stato furbo, quindi la colpa non è di Krasic, ma è del giocatore del Bologna. Buona giornata, l'ascolto. Grazie a lei, Ernesto, questa non è male. Potrebbe essere, magari fanno ancora in tempo di inserire nella tesi difensiva. Sentite, questo è un racconto che Cristiano Pestrin mi ha inviato stamane per mail sul tentativo di andare a vedere ieri Padova, Udinese-Padova di Coppa Italia, tentativo fallito. Dunque ieri pomeriggio mi si liberano alcune ore a causa di un appuntamento saltato, sono vicino allo stadio di Udine, una bella giornata, ma perché no? Tra l'altro la tanto bistrattata Coppa Italia costa solo 6 euro, di fronte c'è Padova eccetera eccetera, lì si dilunga un po' in qualche amarcord. Arrivo 10 minuti prima dell'inizio, tanto chi vuole che ci sia, infatti ci sono poche centinaia di persone, peccato siano tutte davanti alle casse a fare il biglietto e le code non procedono. È ovvio, penso io, se per ogni biglietto mi ha riportato tutti i dati anagrafici ci vorrà qualche minuto. Me ne sono andato al 20°, visto che non sarei riuscito comunque a entrare prima della fine del primo tempo. Seguono altre considerazioni, ma soprattutto seguono quelle finali, in cui Cristiano Pestrin scrive: sono stanco di vivere in un paese in cui se le leggi non vengono rispettate si fanno altre leggi anziché far rispettare quelle che già ci sono. Sono stanco di vivere anche in un paese in cui le regole esistono solo per quelli che le regole le hanno sempre seguite. Gabriele, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno Gigi, l'ascolto sempre, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, no, mi volevo riferirmi appunto a quello che diceva il tifoso juventino prima per quanto riguarda gli scudetti assegnati all'Inter, a tavolino e tutto. Io sono interista. Comunque volevo anche ricordare che ai tifosi juventini che se sono stati assegnati anche gli scudetti all'Inter solo esclusivamente per quello che ha subito l'Inter in passato contro la Juve. No Gabriele, no, mi scusi, non diciamo. No, non volevo fare appunto. Non diciamo delle inesattezze. Quello scudetto fu assegnato all'Inter sulla base del ragionamento che un vincitore ci voleva e che quindi in classifica la prima dietro alla Juventus penalizzata, e mi pare di ricordare al Milan che era arrivato secondo e che fu penalizzato a sua volta, la prima casella libera era l'Inter. Ora, insisto, secondo me accettare uno scudetto del genere è ridicolo. Oggi lo dico nel 2010 come lo dissi nel 2006, però quello fu un ragionamento, non fu un indennizzo per quello che eventualmente poteva essere successo prima. Ma per quando sentivo anche una trasmissione, un'ultima, sentito da Giulio Cesare, che giustamente lo scudetto all'Inter doveva essere assegnato proprio per quello che avevano subito, quindi mi sembrava giustissimo. Vabbè, questa era un'opinione di Giulio Cesare che non mi risulta però far parte dei comitati dei saggi, no? L'aveva fatto in una trasmissione. Fa il portiere e fa una... bravissimo, formidabile, e ha fatto un suo ragionamento, ha fatto un suo... una sua riflessione di indennizzo morale, ne ha piena facoltà, ma non è su quelle basi che fu assegnato quello scudetto. Questo intendevo dire. Dunque, a me è bastato vedere la rovesciata di Pelé nel film Fuga per la vittoria, solo quella varrebbe il voto, scrive Buddy. Beh, quella fu in effetti una rovesciata sensazionale. L'eleganza del gesto di Pelé era qualcosa di unico, e su questo siamo d'accordo. Andrea, provincia di Lucca, buongiorno. Sì, buonasera, mi sente? Certo, forte e chiaro. Senta, allora, io l'ho chiamato per la classifica che lei ha fatto di Baggio. No, non mi sta bene. Posso dire la mia? Però certo. Lei non mi deve interrompere. No, basta che lei stia in 25 secondi, io faccio scattare il cronometro. Allora, il discorso è questo qui. Baggio con Rivera ha un'unica sola affinità. Che tutti e due erano preferiti non erano preferiti uno per Mazzola e uno per Del Piero, ingiustamente, perché potevano così essere tutti, ma lasciamo per quello. Baggio aveva questa qualità, che lui era odiato dagli allenatori perché vinceva le partite da solo, l'ha dimostrato la Coppa UEFA vinta con la Juve, con 10 scandalosi giocatori lui ha vinto, ha portato una squadra scandalosa in finale mondiale che se non si infortunava forse li vinceva anche da solo. Quindi come si può mettere dopo Schirrer il più bel libero bello di tutti i tempi? Forse non si può, Andrea. Al massimo avrò sbagliato, io non l'ho interrotta per 25 secondi, gliene ho dati 10 in più, abbia pazienza, ma dobbiamo andare in onda le notizie sulle strade e le autostrade. Nicola Filippone, vediamo cosa ha trovato per il giorno 28 ottobre. Sembra ieri. 28 ottobre 1990. L'Italia del volley maschile sale per la prima volta sul tetto del mondo. Gli azzurri di Julio Velasco superano a Rio de Janeiro, nella finale iridata, i fortissimi cubani per 3-7-1, trascinati da un incontenibile Andrea Zorzi. Dopo l'europeo dell'anno precedente in Svezia, la World League di luglio, l'Italia si conferma quindi squadra di vertice. Dominerà la scena degli anni 90, conquistando tra i vari trofei altri 2 mondiali, altri 3 campionati europei e altre 7 World League. Torniamo in... Torniamo a noi e arriviamo a Milan-Juventus. No, prima abbiamo da completare la vigilia di Genoa-Inter, l'anticipo di domani sera. Abbiamo sentito la voce di Destro, cioè l'interista in prestito al Genoa, che domani sera probabilmente giocherà contro l'Inter, contro la squadra di appartenenza. Sentiamo la vigilia di Benitez. Sempre preferisco che vinca l'Inter. L'altri non posso controllarlo, non posso... perdere troppo tempo, no? È chiaro che siamo all'inizio, è importante, come ho detto prima, dare una segnale di che la squadra è forte, ma siamo all'inizio, è l'unica cosa che possiamo fare. Io capisco che tutti guardano la classifica, è sempre meglio essere più alto, ma per me, io ho tanti anni che non devo avere nessun problema di guardare e analizzare che cosa facciamo, e se la squadra va bene sono sicuro che siamo alla fine, saremo al top della classifica. Beh, è un atteggiamento realista quello che Benitez ha raccontato e ha preannunciato anche per l'immediato futuro. Credo anche sia l'unico che l'Inter si può permettere in questo periodo. E in ogni caso questa è una situazione inedita, perché da 4 anni a questa parte non accadeva che all'Inter toccasse inseguire, e semmai psicologicamente, perlomeno per un certo periodo di infortuni e di recuperi, provare a limitare i danni anziché ad allungare sulle rivali. La vigilia invece di Milan-Juventus si programma sabato sera a San Siro, nelle parole innanzitutto di Marotta. Riteniamo noi Juventus che assolutamente non si possa ritenere quello che ha fatto Krasic un comportamento antisportivo, e quindi credo che soprattutto il reclamo verterà su questo. Per quanto riguarda questa norma, ritengo l'articolo 35 che sia una norma, a mio giudizio personale come dirigente di calcio, molto iniqua, perché come ha dichiarato nei giorni scorsi Platini, o ci si affida all'uomo che dirige l'incontro e quindi all'errore che l'uomo può portarsi dietro, oppure ci si affida alla tecnologia in senso totale. E questo era Marotta a proposito ancora della squalifica di Krasic. È pendente il ricorso da parte della Juventus, domani si saprà, forse già in serata oggi, essendoci l'anticipo del sabato, io credo già entro la serata di oggi si saprà se la squalifica verrà confermata per le 2 giornate, se verrà ridotta a 1 o se verrà del tutto eventualmente annullata. Sentiamo ancora Robinho su questa vigilia di Milan-Juve. Un giocatore già mi ha contato che è una partita più importante, e penso io che nostra mentalità è ganare tutto, no? Sappiamo che la partita è molto difficile, però stiamo lavorando per facciamo una buona partita. Io penso che l'attacco del Milan è un attacco più forte, no? Si gioca Ronaldinho, si gioca io, Pato, Ibra. Qualcuno tiene la qualità per giocare e giocare bene. Io sto abituato a giocare avanti, perché gioco con la nazionale avanti. Però se il mister pensa che tengo che giocare un po' nella mezza punta, per me non c'è problema nessuno. E questo era Robinho, non l'abbiamo tradotto perché insomma mi pare che perlomeno fosse comprensibile. Andrea ha chiamato dalla provincia di Lucca, buongiorno. Andrea? No, io non so se sono io, sono Massimo da Pistoia. Lei è Massimo da Pistoia, perfetto. Allora abbiamo incrociato una linea, c'era un Andrea da provincia di Lucca che sarà parcheggiato su un'altra linea che prenderemo dopo. Massimo, dica. No, volevo dire che praticamente con Kasic mi sembra che la Juve stia riperdendo punti, nel senso, io sono uno sportivo, non sono particolarmente tifoso, ma mi piace molto il calcio e mi piace molto vederlo, e sono rimasto molto scandalizzato a suo tempo di quello che accadde nel caso Moggi, e mi sembrò una cosa dignitosa da parte della dirigenza Juve non rivendicare e accettare con sportività e serenità il ritiro dei due scudetti. Se la Juve non era degna, è bene gli siano stati tolti. Il Milan risultò non degno e non gli furono dati, fu assegnata all'Inter. Se oggi dovesse risultare, come mi sembra stia venendo fuori, che forse anche l'Inter non era degna, bene, si tolga anche all'Inter e non si assegna a nessuno. Mi sembrerebbe una cosa logica e assolutamente ammissibile. Con Krasic non vorrei che si ricominciasse con la vecchia Juve, con il vecchio stile, giustifichiamo tutto, salviamo tutto. Tutta la simpatia che la Juve aveva guadagnato, secondo me, negli sportivi veri, comportandosi dignitosamente nel dopo Moggi, non vorrei che ricominciassero a giocarsela. Ecco. Beh, questo è un intervento che condivido, a parte la vicenda Krasic, perché insomma, sì, sono d'accordo anche su quello, però io posso capire la rabbia per una squadra, perché poi insomma, sono in tanti a sbagliare, poi la platealità con cui ha sbagliato Krasic giustifica ampiamente questa squalifica, però come dire, siamo già un po' più nell'opinione, siamo nella cronaca, no? È nella storia invece che fa più male vedere che ad un certo punto subentra il revisionismo ad ogni costo, anche da parte di chi invece prima ha detto bene, lei aveva accettato. Dopodiché, se ci saranno degli elementi nuovi per variare qualche per riscrivere una parte, io credo una parte molto piccola, ma in ogni caso una parte di quella storia, allora si riscriveranno, ma come minimo si attendono gli sviluppi, si attendono le sentenze, non ci si porta avanti a questa maniera. Mi pare che abbia detto bene Massimo. Giovanni da Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Gigi, buongiorno. Buongiorno. Io ti chiamavo per il tema della Juventus che arriverebbe dietro i suoi scudetti. Tu dicevi prima l'Inter... Ma noi ci conosciamo? Sì, sì, ho chiamato altre volte, Gigi, sono tuo ascoltatore. Ah, è per questo che ci diamo del lei? No, era per capire. Gigi, che... Ascolta, niente, tu dicevi io non avrei preso quello scudetto perché è segnato la prima casella vuota. Allora ti dico questa cosa qua: partiamo in 18 con 18 biciclette, uno un motorino nascosto dietro un cespuglio, poi il motorino arriva, io che sono il secondo, il primo dopo quello che ha corso col motorino a correre in modo là, io voglio la medaglia, permetti Gigi, assomiglia a me, ragazzi. Sì, ho sentito immagini molto, molto più felici della sua. Posso aggiungere anche un'altra cosa: se per caso si scopre, come si potrebbe anche scoprire, che oltre a chi davvero orientava o falsava i campionati, c'era qualcun altro che magari a fin di tutela, ma insomma esagerava per eccesso di legittima difesa, come per esempio fece la Fiorentina, che a suo tempo emerse, mentre per altre società queste cose allora non emersero. Se ci fossero dei fatti nuovi, io credo che senza arrivare alle sanzioni che sono toccate ai maggiori colpevoli, qualche altra sanzione potrebbe legittimamente riguardare dei colpevoli di minore entità. Questo credo che sia il senso di quello che sta accadendo a Napoli e sia quello su cui la federazione si è data l'impegno di vigilare e di trarre poi delle conseguenze in base alle risultanze. In base all'orologio invece, Carmelo Lauricella mi fa segno alla regia che anche per oggi abbiamo terminato. La stessa cosa vale per Franco Piantanita, che ringrazio per il lavoro in redazione. Buon pomeriggio a tutti. Tempo di sport.